tutti, siamo qui compagni di Via Prenestina 44, di questo nuovo spazio occupato che stiamo cercando di far vivere, di creare in questo quartiere del Prenestino. E niente, rinnoviamo l'appello a tutti i compagni e le compagne solidali a passare qui, perché vogliamo mantenere appunto questo posto aperto nel quartiere. È stata una bellissima mattinata, perché per adesso abbiamo ricevuto un sacco di solidarietà dalla parte degli abitanti di questa via, e ovviamente le merde in divisa cioè anche i gozzini sono arrivati, e insomma c'è arrivata voce, ci intimano che ci mandano via entro le 5, quindi noi chiamiamo tutti i compagni e le compagne per venire qua a darci una mano, e giusto per dare un po' l'idea di cos'è questa occupazione, abbiamo fatto questo volantino che abbiamo letto stamattina anche in radio, lo rileggo solo un estratto, solo un piccolo estratto: assemblee, incontri, dibattiti, brindisi, mangiate, scambi di idee, presentazioni, chiacchierate sono le idee che abbiamo in testa per far rivivere questo vecchio seminterrato. Crediamo possano essere improntate come un importante punto di partenza. Non basteranno certo a sovvertire questa società ingiusta, ma non potremmo farne a meno. Abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di incontrare persone che come noi sentono il peso dell'isolamento in cui vorrebbero relegarci. Abbiamo bisogno di tutto. Per tutto questo ci teniamo ben a distanza da parti di istituzioni, da fascisti e polizia. Per questo siamo arrabbiati, per questo e per molto altro siamo anarchici e anarchiche. I compagni di Via Prenestina 44. In questo momento, ragazzi, è arrivata la celere. Sono 1, 2, 3, 4, 5 blindati e un sacco di celere, e stanno entrando in questo momento, quindi invitiamo tutti a venire, e anche visto che tutta Roma sta sentendo questa cosa adesso, noi siamo qui a testa alta come sempre. Ciao, allora, a tutti compagni e compagne. Aspetta, ci avete il tempo dimmi, stare 2 minuti? No, sì, 2 minuti, sì. Quasi no, tutta affinché, la celere qui, ma noi siamo affinché insomma magari ecco anche la gente che magari ascolta e che è intenzionata a venire abbia le idee chiare. Voi avete siete riusciti a avere delle notizie riguardo il posto, la sua funzione, lo stato di abbandono? Questo a proposito. Sì, allora il posto era, perché adesso sono entrata la polizia dentro, in questo momento era dell'FS, e per pochi minuti è stato nostro e di tutti le persone insomma che l'avrebbero voluto frequentare. E sì, era dell'FS come tutti i palazzi qua intorno, la speculazione appunto di sta cazzo di FS de merda che già ci vuole distruggere la vita col TAV e con tutto il resto, e in più specula sulle nostre vite. Senti, ma è stato in disuso da più di 20 anni, e... Ma sono proprio in corso operazioni di sgombero in questo momento? Sì, no, l'ho ripetuto per un'altra volta, lo ripeto ancora, c'è la polizia qui tutto intorno, ci hanno circondato, insomma la polizia non si sono mossa. Ci stanno sequestrando tutto, ci sequestreranno pure i cornetti e la torta. Senti, io credo che anche per fare in modo che magari insomma la situazione sia così, come dire, sotto il controllo di tutti, delle orecchie di tutti perlomeno, se puoi rimanere un po' al telefono, sì, in modo tale insomma, rendiamo conto se le operazioni si stanno svolgendo, in che modo si stanno svolgendo queste operazioni. Sì, stanno svolgendo. Allora guarda, noi siamo circondati in questo momento da 5 o 6 blindati di celere e da un sacco di celerini e di Igos dappertutto, e adesso siamo insomma con le spalle al muro nel vero senso della parola, e nel muro del punto di Via Prenestina 44, e stiamo trattando diciamo per andarcene via insomma. Adesso che dobbiamo fare un seminterrato completamente chiuso, insomma ci sono poche finestre, quindi era insomma impensabile chiudersi dentro, quindi... Che atteggiamento c'è da parte? Non c'è spazio per una trattativa? E quanto spazio ci può essere con gente che ti mette le spalle al muro? Cioè insomma, sì, qua ci stanno chiedendo i documenti, ecco, stiamo cercando di evitare questa cosa qua. Va bene, allora compagni, facciamo così, che ci risentiamo tra pochi minuti. Ci risentiamo, dai, chiamateci tra qualche ventina di minuti, così vediamo se è cambiato qualcosa, se non siamo in questura. Comunque noi siamo sempre a testa alta perché siamo dalla parte del giusto, quindi non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Va bene, a pugno chiuso, a dopo. Ciao. Allora, insomma, sono momenti credo abbastanza concitati perché, come avete ascoltato, la celere è giunta in forze per compiere l'ennesimo atto di sgombero nel giro di poco più di un mese all'interno della nostra città. E evidentemente, insomma, riappropriarsi degli spazi per renderli di nuovo aperti e funzionali, insomma, magari non per gli stessi obiettivi che vorrebbero loro signori, ma per produrre.